La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato all'archivio storico del Quirinale, la cui nuova sede è stata inaugurata lo scorso 25 giugno nel complesso di Sant'Andrea al Quirinale. Ospite ai nostri microfoni Paola Carucci, sovrintendente per l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. Nella seconda parte vi proponiamo un estratto della conferenza dal titolo Il genocidio armeno, che si è tenuta durante È Storia, il quinto festival internazionale della storia di Gorizia. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. Il testo originale della Costituzione, ma anche il telegramma che Arturo Toscanini inviò al presidente Luigi Einaudi, che il 5 dicembre del 1949 lo aveva nominato senatore a vita. È un ricchissimo patrimonio di documenti quello raccolto nell'archivio storico del Quirinale, un materiale notevole composto, oltre che dai documenti, da 5.200 audiocassette e 1.500 videocassette. Questo è il testo del telegramma che Toscanini inviò a Einaudi, nel quale appunto rifiutava la nomina senatore a vita. È un vecchio artista italiano turbatissimo dal suo inaspettato telegramma che si rivolge a lei e la prega di comprendere come questa annunciata nomina sia in profondo contrasto con il suo sentire e come egli sia costretto con grande rammarico a rifiutare questo onore. Schivo da ogni accaparramento di onorificenze, titoli accademici e decorazioni, desidererei finire la mia esistenza nella stessa semplicità in cui l'ho sempre percorsa. Grato e lieto della riconoscenza espressami, a nome del mio paese, pronto a servirlo ancora, qualunque sia l'evenienza, la prego di non voler interpretare questo mio desiderio come atto scortese o superbo, ma bensì, nello spirito di semplicità e modestia che lo ispira, accolga il mio deferente saluto e rispettoso omaggio. Altri tempi, si potrebbe dire. Dalle carte del Quirinale emerge anche il decreto di nomina del 1 dicembre 1950 a senatore a vita di un altro grande italiano, Carlo Alberto Salustri, in arte Trilussa. Per quel che riguarda l'attività istituzionale in senso stretto, dall'archivio spunta una lettera che Giovanni Gronchi scrisse il 27 luglio del 1960 al presidente del Consiglio Amintore Fanfani, lettera che affronta un argomento quanto mai attuale, la riduzione del numero dei componenti del governo. Desidero richiamare la sua attenzione sull'opportunità di limitare il numero dei sottosegretari a non più di uno a dicastero, salvo quei casi eccezionali che rendono necessaria la deroga a tale principio, come per il Ministero del Tesoro e di quello della Difesa. Il contenimento del numero dei sottosegretari in limiti funzionalmente sufficienti, ma più ristretti rispetto al passato, varrà sicuramente a fugare l'impressione, troppo diffusa negli ultimi tempi, che tali incarichi governativi siano distribuiti soltanto per motivi di equilibrio politico, il che mi sembra dannoso e pregiudizievole nei confronti della responsabilità che i massimi organi costituzionali hanno verso la pubblica opinione. Regista dell'intera operazione è la professoressa Paola Carucci, che è sovrintendente per l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. Il presidente Napolitano l'ha ringraziata così. Credo che davvero si è fatto un eccellente lavoro, si è giunti a un eccellente risultato di cui dobbiamo in modo particolare essere grati alla professoressa Carucci e ai suoi collaboratori. Alla professoressa Carucci, che vorrei dire ci ha ancora una volta dimostrato come per riuscire in un compito e per fare bene il proprio mestiere occorre combinare professionalità e passione. Buonasera professoressa. Buonasera. Allora ci racconti un po', racconti ai nostri ascoltatori come è nato questo progetto, quali difficoltà hai incontrato, immagino non poche, perché si tratta di un percorso avviato nel 96, se non ricordo male. L'archivio storico della Presidenza della Repubblica è stato istituito nel 1996 e rappresentava un punto di arrivo importante rispetto al problema che fin dalla Costituzione della Repubblica si era posto per la conservazione delle carte dei presidenti e dell'attività per svolgere le funzioni presidenziali. Nel 96 è stato istituito l'archivio storico grazie, sotto la presidenza Scalfaro, grazie all'impulso dell'allora consulente per gli archivi storici, professoressa Giuliana Limiti, la quale ebbe il grande merito anche di far fare un pubblico concorso per archivisti specializzati che lavorassero sulla documentazione per riordinarla e descriverla. Vi erano però delle difficoltà che venivano da lontano. Uno dei problemi proprio per la conservazione di questo archivio era la difficoltà di trovare all'interno di una sede prestigiosa, storicamente importante come il Quirinale, dei locali adatti, sufficientemente ampi, sufficientemente sani, quindi non in scantinati o in luoghi inadatti, per collocarvi la documentazione. E in effetti la fase successiva si è svolta sotto la presidenza Ciampi, che ha avviato il processo per riavere in uso il fabbricato del Sant'Andrea, sì, quello cioè dove oggi ha sede l'archivio storico, fabbricato che in passato era stata sede del Ministero della Real Casa, sì, ma essendo di proprietà del demanio, con la proclamazione della Repubblica fu riacquisito dallo Stato. Soltanto verso la fine del mandato del presidente Ciampi è stato possibile riottenere in uso questo fabbricato e con la presidenza Napolitano si è affrontato il problema dell'archivio storico in tutti i suoi molteplici aspetti, sia sotto il punto di vista dell'ordinamento, in quanto prima era inquadrato in un servizio unito alla biblioteca, mentre ora è stato scorporato e diventato una struttura con autonomia organizzativa alle dirette dipendenze del segretariato generale, ma anche con la possibilità di avere questa sede. E l'aspetto importante è che siamo riusciti a risistemare questa sede particolarmente adatta ad archivio con questi grandi spazi in 18 mesi. Siamo riusciti a portare a termine il restauro, la risistemazione in 18 mesi. Un tempo breve, quindi. Un tempo eccezionalmente breve per questo tipo di lavori. D'altro canto, mi sembrava opportuno impegnarsi al massimo perché la volontà del Presidente era proprio quella di rendere attiva la funzione dell'archivio storico, sia per i ricercatori, sia per le attività didattiche con le scuole, e quindi era importante riuscire a mettere a norma, a creare una struttura che potesse funzionare al meglio in tempi sufficienti perché anche il Presidente potesse vederne realizzata e anche in attività le funzioni. A questo proposito, professoressa, il segretario generale del Quirinale, Donato Marra, ha detto che si tratta di documenti preziosi per tramandare e custodire la memoria storica del nostro passato, senza la quale non ci può essere un autentico e consapevole senso di appartenenza alla comunità nazionale. Quindi ora questa immensa documentazione servirà anche a questo. Immenso non è l'aggettivo adatto, in quanto diciamo per quantità l'istituzione archivistica che conserva per la storia italiana, quindi dopo l'unificazione del regno, la quantità maggiore di documenti è ovviamente l'archivio centrale dello Stato. Questo è un archivio storico specialistico, cioè l'archivio storico di una istituzione, ma in questo caso dell'istituzione che rappresenta la più alta carica dello Stato. Quindi ha anche un valore fortemente simbolico il fatto di raccogliere questa documentazione e cercare anche di colmare delle lacune che si sono create nel tempo, perché quando non esisteva l'archivio storico dei carteggi, ad esempio, più personali non sono stati versati, non sono stati lasciati, quindi ora noi abbiamo anche un'attività di copiare quindi questa documentazione che in qualche caso è andata presso altre istituzioni culturali per ricostituire nella loro integrità le serie documentarie dell'attività della Presidenza della Repubblica. L'importanza è evidente, perché basta leggere i giornali per capire quanto è importante il ruolo del Presidente della Repubblica. Un'ultima cosa, professoressa, può ricordare ai nostri ascoltatori come sono articolate le modalità di consultazione del materiale ora raccolto nel nuovo archivio storico? Noi già nel 1997 era stato 97-98 era stato elaborato un primo regolamento per la consultazione dei documenti. Noi abbiamo adesso rielaborato il regolamento per renderlo in perfetta armonia con la normativa generale sulla consultabilità dei documenti applicata anche per l'Archivio Centrale dello Stato e in armonia anche con la legge di tutela dei dati personali. Quindi i termini sono: per la documentazione non di carattere riservato non vi sono limiti, per la documentazione di carattere riservato c'è la possibilità, ci sono i previsti limiti di 50 anni con la possibilità di autorizzazione alla consultazione anticipata per motivi di studio. Bene, grazie professoressa, buon lavoro, la ringraziamo molto e complimenti. Grazie a lei. Vi proponiamo ora un estratto della conferenza dal titolo Il genocidio armeno, che si è tenuta durante il festival È Storia di Gorizia. Quello degli armeni è stato tra i primi genocidi condotti su base sistematica nell'età contemporanea. Un vero e proprio paradigma di tutti gli olocausti novecenteschi, il secolo dei grandi stermini. Con l'espressione genocidio armeno ci si riferisce in particolare alla deportazione ed eliminazione di armeni compiuta dal governo dei giovani turchi tra il 1915 e il 1916. Costoro temevano che gli armeni potessero allearsi coi russi, di cui erano nemici. Già nel 1909 si registrò un eccidio di almeno 30.000 persone nella regione della Cilicia. Il genocidio vero e proprio cominciò nella notte tra il 23 e il 24 aprile 1915, quando vennero eseguiti i primi arresti tra l'elite armena di Costantinopoli. L'operazione proseguì l'indomani e nei giorni seguenti. In un mese, più di 1.000 intellettuali armeni, tra cui giornalisti, scrittori, poeti e perfino delegati al Parlamento, furono deportati verso l'interno dell'Anatolia e massacrati per strada. Marco Cimino, storico e giornalista. Il primo dato su cui vorrei porre la vostra attenzione è il dato che proprio l'Olocausto armeno ha rappresentato in qualche modo la manifestazione della possibilità di sterminare un popolo. Quando Hitler, alla vigilia della soluzione finale, è stato interpellato circa l'effettiva possibilità di applicare a un'intera popolazione uno sterminio di massa, ha usato proprio l'esempio degli armeni per giustificare questa operazione. Gli armeni dimostravano che si poteva fare. Da questo punto di vista però ci sono delle differenze. Mentre il razzismo che i nazisti applicano al popolo ebraico è un razzismo di matrice darwiniano-biologica, il razzismo dei turchi, dei giovani turchi, non si pongono una questione biologica ma una questione, chiamiamola così, di convenienza nazionale, di politica nazionale. Sostanzialmente i turchi si sentivano minoranza istituzionale in casa loro, gli armeni rappresentavano i diversi non solo politicamente ma anche come comunità molto coesa, religiosamente, e quindi sono stati eliminati. Lo svolgimento di questo olocausto è paradigmatico perché avviene all'interno di una grande guerra mondiale. Questo perché la guerra rappresenta in qualche modo lo scenario ideale per mascherare un olocausto. All'interno di una guerra è più facile nascondere un genocidio. Alberto Rosselli, giornalista e saggista storico. Io vorrei brevemente, in maniera molto sintetica, ripercorrere quali sono state le tappe salienti di questo genocidio. La questione armena risale alla fine dell'Ottocento, perché risale nel periodo 1894-1896 con la prima persecuzione di Abdulhamid II, che è stato l'ultimo sultano. Poi abbiamo una seconda fase, che è la fase modernista, che viene invece intrapresa nel 1914 dal triunvirato Talat Pasha, Enver Pasha e Jamal Pasha, rappresentanti del movimento dei giovani turchi. È diciamo la parte più interessante, se mi è consentito di usare questo termine, perché stiamo parlando dell'eliminazione di 1.500.000 individui, ma la parte dal punto di vista storico è forse quella più importante, perché non si tratta di una persecuzione di una minoranza come era avvenuta anche nei paesi slavi da parte dei russi nei confronti dei polacchi, da parte dei polacchi nei confronti dei russi per una sorta di diversità e di contenzioso territoriale, ma per una sorta di assoluta non comprensione dei diritti di una minoranza. Ricordiamo che la minoranza armena in realtà nel 1894 non era proprio una minoranza, perché contava circa 2 milioni, 3 milioni di individui che rappresentavano anche l'élite in qualche modo dell'impero ottomano, in quanto l'impero zarista, per interessi suoi personali, non certo per amore nei confronti della minoranza armena, ha usato in qualche maniera strumentalmente la presenza della minoranza armena nella zona caucasica, nella zona dell'Anatolia orientale, in funzione antiturca. Questo fa in qualche modo da acceleratore per quello che riguarda l'insofferenza da parte dell'establishment ottomano nei confronti di una minoranza che non solo è una minoranza etnica, non solo è una minoranza religiosa, ma può rappresentare un alleato pericoloso del principale avversario dell'impero ottomano, che è la Russia zarista. La guerra, avete visto, non va come vorremmo. I russi premono con più forza del previsto. Ma dobbiamo resistere. Voi vi rendete conto di cosa significherebbe la nostra sconfitta? La fine del nostro progetto. La grande Turchia. La Turchia ai turchi. Ma è come ora dobbiamo essere decisi, pronti a liberarci dai nemici interni. Il nostro è un grande popolo. Non deve essere inquinato da popoli inferiori. O forse qualcuno fra voi intende tirarsi indietro. No! No! La Grecia è dei greci! La Francia dei francesi, perché la Turchia non deve essere dei turchi? Fuori la marmaglia degli armeni! Questa gente è ricca, falsi e traditori! Gli armeni sono pronti! Sì, sono pronti ad accogliere i russi! La seconda fase è quella, dal punto di vista sia storico, sia sociologico e, se mi consentite, anche scientifico e tecnico, più interessante e drammatica. In quanto la seconda parte della strage armena, che va dal 1915 al 1916, il suo acme è nel 16, ma si protrarrà fino al 17-18 con le ultime persecuzioni nell'area di Baku da parte dei turchi nei confronti della minoranza armena dell'Azerbaigian, e si colora, diciamo, ha una connotazione di tipo scientifico. Cioè viene pianificata attraverso una programmazione tecnica e scientifica che in qualche modo trova le sue radici dagli stessi convincimenti di tipo modernista del triumvirato Enver Pasha, Talat Pasha, Gemal Pasha. È una programmazione di tipo scientifico che presuppone delle metodologie che non sono mai state utilizzate per altri genocidi o altri strage. Non si può paragonare a un pogrom, non si può paragonare, perché i mezzi, i metodi e la scienza vengono a supporto di questa strage. Su questo argomento, e con questo concludo, avrete modo di ascoltare una testimonianza molto interessante del professor Tenon, che proprio ha studiato proprio gli elementi, le metodologie di tipo tecnico e scientifico che sono state adoperate dai giovani turchi per in qualche modo portare a compimento questa loro infamante, diciamo, azione. Yves Ternon, medico ed esperto a livello internazionale di crimini contro l'umanità. J'ai d'abord à m'excuser de ne pas parler italien, donc je vais m'exprimer en français, mais avec la charmante. Mi scuso innanzitutto per non parlare italiano. Vorrei spiegarvi a che punto è la ricerca storica sul genocidio. In Francia, durante il memoriale della Shoah, abbiamo esplorato le similitudini fra quelli che sono i tre grandi genocidi appurati del XX secolo. Perché dico appurati? Perché c'è una prova e ci sono già numerosissimi lavori per dire che questi genocidi ci sono stati. Non si discute più se è il caso di parlare di genocidio quando parliamo di ebrei, del genocidio in Ruanda e di quello armeno. Ci sono stati, punto e basta. Ad un'analisi comparata fra questi tre genocidi vediamo delle differenze e delle analogie. Questi processi nascono in un periodo pre-genocidio, in cui si passa quella soglia del crimine. A partire infatti da un'ideologia assassina come il panturchismo e il turanismo, progressivamente il criminale sente la necessità di un genocidio, ed è quello che è successo presso i turchi, perché il panturchismo si è trasformato in una minaccia e questa minaccia è stata costituita dalla sconfitta della terza armata ottomana nel 1915. Dal 1915 Tarak Pasha, ministro degli interni assieme al ministro della guerra, e il comitato Unione e Progresso, che annuncia poi il totalitarismo del XX secolo, hanno iniziato a pensare che la minaccia fosse vitale: o noi o loro. Se non estirpiamo gli armeni dell'Anatolia dell'Est, saranno loro a estirpare noi, come abbiamo già fatto con i massacri del 1896. Quindi nasce l'ideologia della minaccia, e questo è il nodo centrale di ogni genocidio del XX secolo: la percezione che ci sia una minaccia vitale. La traduzione, peut-être un peu tard d'ailleurs, ça. I miei superiori mi hanno diffidato a parlare. Negano la verità. Ma io ho visto con i miei occhi l'eccidio. Dopo la sosta ad Aleppo, costringemmo i deportati a riprendere la marcia forzata fino a Deir ez-Zor. Là, i sopravvissuti alla fame, alla sete e alla fatica furono massacrati tutti. Lei intende denunciare qualcuno in particolare? Me per primo. Io ho ucciso una ragazza armena. Si chiamava Nunik Avakian. En ce qui concerne la Shoah, elle se termine avec la chute du national-socialisme et la défaite totale de l'Allemagne. Durante la Shoah, che si è conclusa con la caduta del nazionalsocialismo e con la caduta poi della Germania, sono stati uccisi milioni di ebrei. Il tempo del genocidio però è sempre un tempo molto limitato, e la fine corrisponde sempre con la perdita da parte dello Stato criminale. Ma c'è una differenza rispetto all'impero ottomano, perché l'impero ottomano ha sì perso la guerra, però ha continuato a occupare l'Anatolia orientale. Il movimento rivoluzionario infatti ha sviluppato questa ideologia turchista e non panturchista, proprio turchista, e ha sfruttato i benefici che venivano dal genocidio armeno, che differentemente dalla Shoah è un genocidio riuscito. L'obiettivo infatti del genocidio armeno era distruggere gli armeni dell'Anatolia, ed è un genocidio riuscito perché nel 1923, quando nasce la Repubblica Turca, si sfruttano i benefici di questo annientamento. Infatti si è riuscito a dimenticare nella storia della Turchia questo genocidio. Vorrei ritornare a questo punto sull'ideologia, un aspetto che è stato già ben sviluppato dai miei colleghi, e parlare di quel razzismo ideologico di cui sono anche corresponsabili la Francia, l'Inghilterra e la Germania, di quell'antisemitismo che è però diverso dal nazionalismo puro, perché non c'è un odio verso l'altra razza nei confronti degli armeni, ma si chiede che siano i turchi a dominare su una razza armena, ed è una cosa diversa, e questo crea condizioni diverse fra la Shoah e il genocidio armeno. L'obiettivo dei nazisti infatti era distruggere tutti gli ebrei nati in quanto ebrei, e se avessero conquistato il mondo l'avrebbero fatto in tutto il mondo. Diverso l'obiettivo dei giovani turchi, che era invece distruggere l'identità armena. Durante il genocidio armeno infatti sono stati rapiti circa 200.000 armeni, principalmente donne, ragazze che venivano chiaramente stuprate, ma anche bambini, che sono stati reintegrati in famiglie turche come schiavi, e hanno quindi sviluppato un'identità armena islamizzata. L'obiettivo quindi non era distruggere gli armeni in quanto tali, ma distruggere l'identità armena. La costruzione dell'histoire della Turchia, cet événement che ha été la destruzione des arméniens de l'Empire ottoman. Arresti e deportazioni furono compiute in massima parte dai giovani turchi. Nelle marce della morte, che coinvolsero oltre 1 milione di persone, in migliaia morirono di fame, malattia o sfinimento. Il governo di Ankara continua ancora oggi a rifiutare di riconoscere il genocidio ai danni degli armeni, ed è questa una delle maggiori cause di tensione tra Unione Europea e Turchia. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Un ringraziamento in redazione a Daniele Casagrande. Buonanotte.